Attento 10. C'è qualcuno su 10? Attenzione 10, c'è qualcuno? Che avanti? Avanti, chi vuole entrare? Che avanti? Avanti, chi è? No, ho appena acceso anch'io, sto provando l'antenna. Fabio, a proposito, un messaggio da parte di Giovanni Bracco. A Torralba rientra lunedì prossimo, per quella roba ti deve dare, quella roba di come si chiama? Roba di elettronica. Oggettistica. L'hai visto? Ma perché non si trova più? Registrato. Ma è morto, stai dicendo? Ma in che via stai dicendo? Nella traversa o la parallela dove c'ho il lavoro io? Lo puoi dire il cognome di questo che è morto? Ah, a Puglia, cavolo. Ed è morta anche la moglie. Allora, siccome lo zio di... lo conosci a Ruspa? Tu, scusate, vorrei chiederti, Ruspa, quello senza mano. È senza mano, descrizione. Ruspa di soprannome, Aldo si chiama. È l'apparente di Canopoli, quella persona lì. Lui, il padre, diciamo, il padre che l'ha adottato era di Erula e si chiamava Coso Marras, l'avvocato. Ok, facciamo riprendere Riccardino, così facciamo anche una prova, perché io adesso ho montato, anche se non è perfettamente montata, l'ho solo sollevata l'antenna, una multibanda. Avanti Riccardo. Ok, ciao Roberto. Non faccio ok, allora Ricca, la faccio con te la prova, adesso memorizza questo segnale, adesso cambio l'antenna, però devo accordare. Ok. Ciao Fabio, comunque dai, magari se ci sei dopo ci sentiamo. Ok, ci saluto anche io Fabio, anche Fabio. Allora guardami questo segnale, questa è la Mantova, adesso combutto l'antenna, però devo accordare, un attimino Ricca. Questo segnale Ricca? Molto più basso. Molto più basso? Praticamente da 9 sei sceso a 7. Ehi, allora questo, vabbè, questa è un'antenna multibanda, tieni presente, l'ho messa quando ci sono molti disturbi di cose, attacco questa qua, c'ha il QRM e il mio QRM, mi abbassa molto il QRM, è un po' di stazionaria rispetto all'altra, ce ne ho 1 e 2, dai, un po' di più. Non è specifica per questa banda, perché è specifica sulle bande HF, dai. Ho notato dalle HF passo da 7 a 9, qua invece da 9 a 7, mi abbassa di 2 punti il segnale. Comunque la radio è sempre 5, Riccardo. È un po' più chiara. tuo segnale tiene presente da 9 e sceso a 7. Vabbè, naturalmente è una radio diversa, peraltro cosa, aspetta un attimino, vediamo se la radio sono, posso andare un po' meglio, aspetta un attimino Ricca, scusa un po', diciamo non è fatta per queste cose. Ecco. Guarda un po' adesso. Radio è migliorata così? Hola? Non fatto, è uguale. Allora, aspetta, vediamo come eravamo prima. Ma mi interessava solo vedere le foto. Adesso riaccordo, aspetta un po' che qua se lo facciamo danno. Hola. Hola? Adesso dimmi il segnale. Adesso riconosco il segnale. Ok, dai, questa me la tengo soltanto di emergenza, nel senso commuto quando mi interessa cambiare, quando c'è molto disturbo, c'è QRM, e poi se voglio ascoltare le bande HF, con questa guadagno tantissimo, molto il segnale. No, vabbè, normale, se basta parecchio il segnale, tu mi hai detto da 9:10 arriva a 7 il segnale, per cui è tanto, a Puglia. L'importante è che stia funzionando, e quello lì mi interessava, perché, vabbè, c'è da dire un po' di stazionaria, cioè perché l'antenna non sta irradiando come dovrebbe, bisogna alzarla un pochettino, adesso quando c'è un po' di tempo mi faccio aiutare, perché dove attaccano i radialini e sta appoggiando sul palo, per cui è tutto un disturbo, dai, è già qualcosa che sta uscendo, almeno il cavo non è in corto, dai. Ma quale, questa? No, questa è la Mantova, adesso ho montato un'antenna, tenete presente non è in condizioni ottimali di montaggio, perché devo sollevarla sopra la cima del palo, se no toccano i radialini, un radialino l'ho tolto infatti per non farla toccare, però l'antenna sta facendo il palo, sta cambiando un po' la risonanza dell'antenna, per cui non funziona come dovrebbe, però ho notato nonostante tutto riesce a irradiare e soprattutto a ricevere per le bande radioamatoriali le HF, gli 80 metri, 160 metri, tutto ha fatto. Sì, io stasera ho notato che si è alzato, 9 più 10, non so per quale motivo, forse il baracchino questo dà qualche parte in più. Ma la radio era migliore o uguale? No, tutto migliore, sia la radio che il coso, che il segnale. Sì, 9 più 10 spaccato e la radio chiara e pulita, magari non è amplificata come quella di qualcun altro, però la radio è pulita, tieniti vicino la bocca al microfono e vedi che ti sento anche un po' più forte. Dimmi una cosa, questo è il microfono originale che ti hanno mandato con quella radio? Prova, l'hai provato a fare la prova a mettere il microfono di quel Tiberi, quello, come si chiama, Walker, adesso non mi ricordo il nome. E adesso vediamo se cambia qualcosa, se è meglio o peggio. Prova a parlare. Non parlare, manda solo portare. Mi sa che il problema non è della radio, è del microfono quando sento quel disturbo. Rimetti l'altro microfono un attimo. Ma io non vorrei dire una cosa, ma quel microfono c'ha qualche problemino, perché sento una specie di ronzio sotto, ti porti appresso un disturbo, Mario non è ben schermato il cavo di alimentazione del microfono, di alimentazione diciamo delle connessioni del microfono, forse non è schermato bene, come questo è più pulita, non hai disturbi. Stavo dicendo, Riccardo, non ho parlato con tuo babbo, mi ha mandato solo l'immagine, ma quel satellite ve lo state comprando o era soltanto un'idea? No, era un'idea, perché il 4 andava a dare anche il diciamo, non ha le stesse caratteristiche di questo 3400 che ho io, è un pochettino più piccolo e c'ha molte meno bande, per questo ne avrà una ventina di bande quello che ho io, però l'Evolution gli hanno messo un circuito digitale magari di ricezione, l'hanno un pochettino modernizzato, dai, perché quella la conversione c'era un sistema diverso, quello che ho io e basta, però c'ha più o meno le stesse funzioni di questo, c'ha anche le bande laterali, ho visto, una bella radio, un pochettino più piccolo, all'epoca quella costava anche lui un po' di soldini, però io dico, se uno la vuole per, come figura e usarla così ogni tanto, il prezzo è abbastanza ragionevole, però deve essere certificata, nel senso, quando, se uno deve prendere si fa mandare il coso dall'assistenza dove sono stati fatti gli allineamenti e tutto, perché stai spendendo una cifra non limitata, se no a quel punto aggiungi qualcosa e ti prendi un ricevitore un pochettino più moderno, che sia un po' più largo come ricezione, per dire, si può prendere l'ICR 7000 se lo trovi, magari non nuovissimo, ma aggiungi qualche centinaio di euro, sui 500 euro lo trovi un ICR 7000, oppure qualche ricevitore, se vuoi spendere un po' di più già ce ne sono altri, oppure c'è la R3000, se ti accontenti con 200 euro lo trovi e ti fa da 0 a 2003. Tutto dipende, se lo volete portare appresso in macchina si può portare anche la R3000, dice Vittorio, uno scanner discreto, non è eccellente, ma per fare un ascolto così saltuario va più che bene, poi se lo puoi tenere anche a casa perché ti danno in dotazione l'alimentatorino, naturalmente chi conta l'antenna, se non hai antenna non fai da nessuna parte, ci sono adesso quelle cose, con le antenne che sono multibanda, che fanno da 50 mega, da 30 mega, che arrivano fino ai 1400, 1300 eccetera, le cose come si chiamano, i discone, oppure c'è quella migliore, quella che fa la CTA International, ancora meglio, la Midland, quella che ho preso io è ancora superiore, se no cosa vuoi fare, se vuoi fare altre cose ti devi dedicare a ogni banda di frequenza a un apparato appropriato, così riesci a ricevere un po' tutto e bene. Vabbè, con quello lì te lo puoi portare in macchina, magari diventi la staffettina o gli fai un alloggio, una cosa del genere, con un'antennina te la metti sulla di quelle con la magnetica, te la colleghi, per dire, te ne vai in una zona in alto e ricevi qualcosina, te ne vai qualche ponte, su qualche monte, naturalmente se ci sono ripetitori di radio private, quelli scompare tutto, annientano tutto, ma non dico adesso perché gli aeroporti sono tutti bloccati, però se vai vicino all'aeroporto, porta in zona dove ci sa segnale, anche con la macchina ti diverti a ascoltare le conversazioni delle bande aeree. Sì, no, è bello anche quello lì. O se no, se ti vuoi portare in campo, per come facevo io, ti porti un portatilino, un palmarino, c'ho lì la R2000, nuovo anche quello, funziona con le batterie separate, per cui, oppure se vuoi te la puoi attaccare al coso, all'accendisigari con l'adattatore, oppure anche lì puoi mettere le antenne che vuoi se ti vuoi attaccare una cosa, ed è comodissimo, e puoi fare quello lì un pochettino più piccolo del coso, magari non arriva sino ai 2300, come arriva a questo, non ha le bande laterali, perché se vuoi ascoltare anche le bande HF non le puoi ascoltare con la R2000 perché non ci arriva così in basso e non ha soprattutto le bande laterali. Dovete prendere, ma è venuto un mago, qualche indicazione, almeno sulle radio ricevitori già c'ho una discreta esperienza, perché non dico il mio lavoro, ma il lobby principale è radioascolto io, e l'unica cosa che vado da sempre, dai satelliti a tutti gli altri tipi di bande, ascolto tutto, soprattutto quando sono segnali delicati, nel senso un po' difficili da prendere, di lì mi diverto ancora di più, mi pare che l'ho fatto anche vedere l'altro giorno, quei segnali radio di stazioni molto distanti, che è un po' complicato, con ricevitori dedicati titoli di soddisfazione quando altri non riescono neanche a sentirlo. alla CW c'è qualcuno ancora, è raro, mi sembra siamo su 3200 3500, adesso non mi ricordo esattamente la frequenza, c'è gente ancora che si diverte, diciamo sono i radioamatori normalmente anziani di vecchio stampo, di vecchio pelo, diciamo, ce n'è qualcuno a Sassari molto bravo, il primo di tutti è Angius, professor Angius, che è uno dei più anziani radioamatori di Sassari, per non dire il più anziano, lui va ancora in CW. Ti sposti, però deve avere un ricevitore dedicato oppure un apparecchio HF adattato solo come ricevitore, anche un 440, un 140, e te ne scendi su quelle bande lì, poi ti danno le frequenze se ti interessa e ti dico tutte le bande riservate alle radioamatori, dove puoi ascoltare e cosa puoi ascoltare. Come, non ho capito? No, vabbè, naturalmente devi conoscere il codice morse, se no non capisci niente, senti bip, però ci sono dei sistemi di codifica, lo interfacci col computer e ti dà ogni simbolo, cioè ogni punto e ogni linea ti dà il riferimento corrispondente nella lettera, per cui adesso con i tempi moderni ci sono ricevitori addirittura che ce l'hanno già in automatico, c'è il display e ti appare direttamente come può essere un vecchio fax o una telescrivente, direttamente le informazioni anziché in segnali CW, diciamo in codice Morse, direttamente vedi la lettera o la parola in questo caso. Mi sa che ce l'avevo anch'io simile. Ok, ma la puoi muovere o sei fisso adesso tu? No, la posso muovere. Ti sa orientare allora se sai la direzione dove sono io rispetto a casa tua, ma più o meno siamo nella stessa direzione perché tu sei tutto spostato, per cui diciamo considerando l'apertura, il raggio di apertura di quell'antenna, non so quanti gradi sia, però mi prendi in pieno sicuramente, si può, le lascia così, dai, non tocca niente, se no perdi le liberi, che sei presente, tu sei in polarizzazione orizzontale, io sono in verticale e considerando quello il segnale è molto molto forte. Prova a parlare. Allora, da 9 con i picchi a 9,5, cioè diciamo da 9,10 spaccato passi da 9, quasi 9, dai, un po' più di 9 ai picchi a 9,5. No, diciamo, se riesci a farlo ci puoi provare anche con la Grand Plane e magari in certe direzioni puoi andare in Portogallo e la Spagna, se sei orientato di lì in quella direzione stai andando alla grande. Io poco fa ho fatto un collegamento, ero basso però di segnale, con questo della Spagna, mi ha ascoltato con l'antenna multibanda, il primo collegamento che ho fatto con la multibanda, appena ho chiamato subito mi hanno risposto. Io ne avevo una, penso uguale alla tua, l'ho tenuta a poco, sempre col rotore, mi sono divertito un pochettino, poi alla fine ne l'ho staccata e l'ho data a Claudio, che l'ha adattata per i 10 metri o 6 metri, adesso non mi ricordo cosa l'ha fatta. E ne ho un'altra piccolina, forse una, non mi ricordo se 3 o 2 elementi, lo stesso me l'hanno regalata insieme a questa antenna qua, me ne ha data un pochettino, non so se è metterla, però ne ho un'altra bellissima militare, quella è una cosa spettacolare. Mi sa che gli piace anche quella lì, ma lì però la uso per altre cose. L'ultima ieri sera? Liverpool. Addirittura la cosa non è semplicissima l'Inghilterra, dai, quello non è sempre che si fa quel collegamento, dai, buono per te, segnati sempre le giornate, ti fai un buco di stazione, si chiama, dove indichi la giornata, per dire giorno, oggi, quanto ne abbiamo oggi? 13.05.2020, ore per dire 21, collegamento, ti scrivi Liverpool, scrivi segnale S5, S6, oppure, e poi scrivi radio 4, 3, quello che è. Così c'hai delle memorie storiche e sono cose belle. No, no, a parte la mappa, ti consiglio, magari come ho fatto io, le ho visto, c'ho delle cartine, c'ho la cartina mondiale, la cartina europea, e poi c'ho anche la cartina d'Italia, per dire qualche zona più specifica. Quella d'Italia è enorme, però la devo ancora mettere. Ed è interessante quando devi fare qualche collegamento e ti dicono la zona, vabbè, adesso col telefonino c'è il GPS, la mappa, Google Map e trovi tutto, però è più bellino quando riesci a vederlo sulla cartina, alzi lo sguardo e vedi dove si trova. L'altro giorno c'è la Romania e mi ha detto Candisigora, non mi ricordo come si chiamava questo posto, che l'avevo già sentito, e ti segni le QSL, diciamo, le posizioni di quelli che è collegato, almeno i collegamenti più importanti. Certo, non ti metti se è collegato Lecce, Bari, Milano, quelli diciamo li puoi fare continuamente. È più bello quando fai un collegamento internazionale, è quello più bello, e ti segni la zona. La Spagna ormai la colleghi quando vuoi, perché quasi tutti i giorni c'è propagazione per quelle direzioni lì e siamo molto aperti. Per dire, se colleghi Liverpool, quella non capita tutti i giorni, poi se colleghi il Belgio e cosa, ti scrivi le date e vedi un pochettino di farti un coso su un'agenda ben fatta con delle posizioni. Magari ti fai delle pagine, se sei bravo col computer ti fai una pagina dove scrivi stazione, località, QTH, segnale, se metti, che vuol dire segnale, R radio, l'intensità e la qualità della radio, e c'hai una cosa così che un domani quando vedrai sarai un po' più grande, dici, nel 2020 ho collegato il Lussemburgo, nel 2021 ho collegato con le, c'hai già una cosa, una memoria storica, dai. Io rimango ancora un pochettino, se c'è qualcuno se non vado, dai, buon tutto, buona carica, Riccardi, ciao, saluto anche a tuo babbo, ci sentiamo alle prossime, ciao ciao. Assolutamente, promesso, ok, avanti su 10, chi vuole entrare, ho sentito qualcuno che ha breccato, avanti, che è avanti. Vabbè, non lo faccio sapere, dai. aspetta, dai. Che tornato è? Che sigla c'ha? Che numero? Ah, di modello? Il modello è 74S. 74? Il tornato è... Che ho fatto? La vita, no? No, la... No. 74S? Sì, 74S. E beh, poi cambia tra le visto... Adesso hai nel caso. Cambia tra le visto microfono, la puoi usare, no? Sì, ho portato... Ecco, attenzione! Infatti.